prendi. Ora. Attenzione Giuseppe, Leoncino ci sei. Leoncino ci sei. Attenzione Giuseppe. Sì, UFO! Ebbè, Cimbrano! Attento, Cimbrana! E cosa stai facendo? E sta ascoltando la di là, me. Ah, no, ui! Mi sono sempre i semacchi. La sali qui da una banda di gay. Ha detto, beh, a razza di canali, per carità. Poi quel frocio non mi risponde neanche. L'ha messo su internet adesso il caschetto. Cubicatura Sassari. Travagli e Zicchelli. Che la devo travagliare? E allora, lui sì che si dà da fare, hai visto? Si è inventato anche quel lavoro adesso, eh? Beh, può andare anche a fare il frufru, se ce l'ha la faccia. E allora, impresario deve fare un po' di tutto, magari lì si riesce a sfondare. Allora? Sì! Curberizoma! Allora, truzza! E allora, Giacino! Oh yeah! Sì, sì! E lui! Sì. E beh, Giorni Maria, sentita, sì! No, non l'ho sentita, per niente! Un altro mi e si entra dati la benedizione e a voi ti dice è venuta gente allora gente ne piccola chiaro credo il cazzo è preparato la televisione chiaro credo va sempre gente vabbè vuol dire c'è gente anche se il canale c'è sempre gente. E allora, ma che ne dico a te gente? Eia, Gidu, Tore, senza motore, è sempre in bicicletta, in tutta fosforescente, si arrugazzicheggiano, e girenni tutta la Sardegna, la Tour de France. E va. E allora, già la lì non si intende più di sastro. Adita, già se la puoi su bocca, antenni, parabole, antennini. E poi non fai mai. Lo so. Ma già dici a te, farò, che non entri mai. E allora? Carmelo Zampulla. Carmelo Zampogna. Ah, ma li vuoi segni a cantare la puritana. Il suo cuore. E lui, a te. Sì, lo sento, non mi manda. Se voglio tanto bene, la. Poi vengo, ti bussano la porta, ti mettono le manette. E allora, mi parto per le vacanze. Porto due cosette, capita, va la macchina, tracolla. Un portabagagli, gli hanno poco di roba. Roba la macchina, se andai in piedi, qui c'è un travaglio. E oggi lavorato hai, bella bene. No. Stamattina è passata la tua 25 qua sotto col cagnolino. Oh, ti ha cagato la piazza. No, passa, scende lì perché fa prima evidentemente, invece fare tutto l'altro giro, taglierà lì. Ah, pensavo dovesse creare la tua piazza. No, nella discesa dalla parte di cucina, di lì, tagli da lì, capito? Ehi, ho capito. Ah, ho capito. Ah, Giuni Maria, va se si mangia di abbastanza al forno. Ah, io ancora mi ho mangiato uno di quei biscotti sardi, lungo, morbido, morbido. E quali biscotti? Non li sta boiati, quelli sono larghi tre dita e lunghi, e 20, no, 15 centimetri si dà. Che sono morbidi morbidi, come si chiamano? Boh. Sono buoni, sono, li ho presi l'altro giorno all'Eurospin, sono in vaschette trasparente, ma sai quanti lavori? Caspita, non ho mangiato uno. Ha detto, dai, dammi mangiare, ha detto, no, troppo dolce. Quali sono, ma all'Eurospin le cose? Dove c'è il pane, no, all'Eurospia Predaneta, ci sono quei contenitori che ci sono dei dolci. Lì ci sono pabassini, formaggelli, un po' di dolci, là. Sono di patata solo. C'è il marchio, no, il nome è patata. E sono buoni. Sì, sicuro zero, mangiano, se metti buoni me ne mangio dici. Oh, sono troppo soffici, sono buoni mica, il caffè, io me lo mangio col caffè, cioè, tu non mosse da me un po' col caffè. Già sono buoni, dai. Sono buoni, sì, e panettoni già preso ne hai tu? No. Ah, mi sa che domani ando e me ne biglio un poco, ma quest'anno non ne compro molto. Come l'anno scorso di roba, a chi da bene tocca a dritta e a sinistra, a chi da bene tanto tutta non se la mangiamo. Che poi cosa ha avuto? La rimuove da voi, cade e si guarda e tocca l'ampazzino. E infatti l'anno scorso un po' di roba l'ho dovuta dare, anche noccioline, cos'è che non va più? No, quest'anno non mi butti. Cosa l'abbiglio da voi mi arriverà la dritta a sinistra? No, non saranno. Beh, certo, basta prendere di meno. Siamo molte volte lo stesso, qua, la frutta c'è in campagna, no? Tanto si guarda, ognuno non si questa, deve c'è la frutta, banana, anche io, anche qua ce n'è mia, aranci, mele, banane, mandarini, clementini, cacchi, mela, e cos'è che non vuoi? Peli. Però, io, oggi mi ha mangiato due mandarini, ma più di due non ne mangio, no? Cosa mangio? La buffa a mandarini? Oppure se prendo qua con me la me ne mangio la metà per dire l'acqua lo do a me mulini. Chi da un libro, allora questo scotto se lo metto nel portafrutta e me lo mangio o la notte o l'indomani. E se no si guascia. E però quando è troppo è troppo. Ogni dita i cigettini di buco o mandarino, guascio o vito o vidascio. E non andavi. Beh, certo. Per prendere poco. Adesso oggi, mezzo chilo. E allora, che ci vuoi dire? Per dire oggi, a parte capo la fiore bolliti, buoni, mi erano piccoletti, però erano i vecchi, bianchi. Beh, è buoni pure. Poi ho guardato nel forno, allora sai, io ieri ne ho preso due di polli. E uno era entro i tre, ancora 30 gradiglia era un po', meno male ci ho guardato. Ha detto, male, no, chi su avare calcio, primo non ne posso, per la gaura e il bollo. Da voi gira il fammi, ti mangi l'affettato, la salsiccia, il formaggio, ci accenemo, mozzarella. E non ho fatto frigo. Grazie, purtroppo i gusti ne compriamo di cose e poi ne butti un bel. Boh, vedi tu, quest'anno date una regolata. Perché quando vai nei posti ci prendi questa, e dai, prima, dai, piglia una subacco, magari vieni chisso, e prendi quella, e prendi quell'altro, alla fine poi ti trovi sempre roba in più. Adesso per dire, io ci ho guardato il forno così, e io ero convinto che ce l'avevi mangiata le mani, tutti e due quei polletti, perché erano piccoli, non erano i manni. E allora le ho detto, no, me la metto a due, e dice, me lo mangio su lui, fa molto di dire, no, la giudizio io. E io dammi la porto giù. E io ero convinto che ieri ce l'avevamo mangiata, ieri a pranzo. Più la Giovanni a dare notti di subollo. Allora non avevo visto che nel forno c'era ancora l'altro. Certo. Poi tu compri gamberi, poi non ne mangi dai gatti. No, gamberi li mangio due, tre se me li sbuccia Paoletta. I gamberi già se li mangia Paoletta, miei figlioli. No, io, oh, non è che mi mattigliano assai. Si vede, lo assaggio, uno, due, massimo tre, me, ma proprio. Se no, non è che le mangio. Li prendo, però non è che non li prendo. Però non sono... non è che mattigliano in birizzante. Certo. Basta, vedi tu, quando vai a fare la spesa, quanti carrelli ti riempi, di la verità, 3-4 carrelli, così è. Lascia lì un carrello, 157 euro, la dici, ma allora che ha sbagliato, no? Con me. E chi te ne è? Già sbagliavo domani. Vabbè. Come si chiama la... Salmone, no, quelli già ce li ho, formaggio ne aggiungo un po' fritto, salsiccia aromatici, la giuncaraccia è piena, frigorifero, di patata con la salsiccia. No, l'ho preso di stata che comincio, ho preso quel polpo che pare una biofra, e chissà, mi pare che è uscito sulle 37 euro. Poi ho preso 10 orate, va bene, erano 8 euro, però non lo so quanto sono uscite. Ti sembra così, però, una cosa in occhio, una cosa chiavi, fai, cammini nel pulene, da qui arriva la caccia e intendi lo zocco, e non sembrava a me. Certo, vabbè. E così grazie, bisogna mangiare. Vado ti fa la scorta. No, per la settimana, poi se mi manca qualche cosa la compro. Per dire, no, mi ero dimenticato lo zucchero e oggi ho sbagliato due bacchi. Capito? Se per qualche cosa ti sfugge, no? Quando vai a fare la spesa. Quando arrivi a casa da me, capita, devi abbigliare tu, capito? E allora lo compro dentro la settimana poi. O se no quando torno a me invece bigliarne, per dire, i piatti, i plastica, invece bigliarne un pacco, uno biglio due o tre, capito? Però un bel di volte finini, non ti rizzini nulla, tu sai che viso e tagate senza piatto, di chi usa in getta. Come li chiamano? Piatti di carta, o bicchieri di carta, sono di plastica. Di plastica, perché io quelli li adopero, perché così non ti trovi a fare i piatti, praticamente ti fai le posate e le pentole, là, poi pentole e posate, fai, bicchieri sono quelli di plastica, capito? Risparmi anche detersivo, acqua, dunque vedi, il risparmio ce l'hai lo stesso. Quelli là ce li butti. Già lo so, grazie. Vabbè. Ma è meglio che avverto in più, dai. A me gli arachidi mi piacciono a me, ma mamma mia, sono le mandorle, come le chiami tu, polarizzi. Oh, beh, a Ciccolina avevo un paio di pacchetti dentro questa cristalliera piccolina qua. La mia bella di ricaduti, si era giurampati, di noci, due di noci e uno di mandorle. Oh, la giubilata, la giubocinzia, mi rimane, oh, mi ero pure dimenticato. Beh, vabbè, che campagna da noi ci sono, anche le noci, io ce l'ho un albero di noci, sta crescendo, però già ne sta già cominciando a mettere, però l'ho assaggiato e buh, una via gara la di a fare il caffè fuori. Oh, se no me le ha portate anche mia figlia che dove abitare a banca, ma a bancare. Ali punti lì ce le ha le luci, me ne ha portato un telecamera da poco, e infatti ogni tanto mi mangio una di quelle. Sono sarde, luci sarde, no? Beh, ho capito, Ma tu ce le hai anche a mare le mandorle, grazie. Qualche luna già la mangio, qualche mandorla al mare. C'è anche un albero qua sotto, vicino al portone di quelle mandorle. Non l'hai visto, però sono ranzica, però è bella. No, ranzica no, fuggi. E a mare sono, qua vicino al portone mio, non l'hai visto. Dove ci sono le scale, quell'albero lì sono mandorle sono. Eppure un bel niente si ne rivasi. A chi li tratta a fare i dolci? Ah, vabbè, per i dolci sì. Qualche luna già l'assaggio, però non di chi, no? In campagna non c'è tanti vinne, alberi di mandorle, ranzi, che è pieno. Da noi, di quegli alberi lì, è ben da Roma stessi. Sì, le mandorle a mare fanno bene a fare gli amaretti, buonaretti, so. Ce li ho, anche oggi li ho comprati, morbidi, me ne ha mangiato uno, da mano, con il tè, a posto di mangiarmi la fetta biscottata, mi ha mangiato un amaretto e un biscotto, di quelli lunghi. Ha detto Marina che sono... cosa sono? Se ne mangi il gruppo sono velenose. Sono velenose. Quale? Le mandorle a mare. Ma che velenose, se le usano a fare i dolci quelle, cosa velenose. E certo, se ti ne mangi un chilo di base mare, bello ti base, ma una, due, tre, così non ti base nulla. Ma fai a mangiarle, grazie a buh, per carità, a mandorla a mare, mamma mia, a me è capitata. Scusa, vai conto come ti che ti sei vivendo per dire un petrus o un cinar e non sono ranzi. Sono amari, è un bel furo, specialmente il petrus. Pari vireno e puro quasi ve. Lo dica perché non ha pula, un bicchierino ogni tanto già fa bene dopo pranzo a digerire. Beh certo. Certo. Grazie. Cucinare, quando lavorava la cinata a fare le consegne, oggi c'è tanto di vizi a cinare, dall'ampulla. In camion mi la buriava, vicino a ruserire, in buricata era manta, ma non pigliassi un freddo, un cadastro qui di una rasata, all'ucinare. Certo, a chi piace? È grucinare un anno rientrando dalla Maddalena, lì a Palau avevo caricato due ragazze, due tedesche, mi ha già accompagnato pensamento a Pocidorra, quando a Pocidorra era già imbriagati a cinare, tutte e due. Stavo facendo vedere come si fa il pane a rete. Poi, nello spento, era acceso fino a poco fa, da mezzo di mesi, grazie al televisore, mi nello spento, ha detto vacca che di esplode la televisione. La mattina molte volte la accendo, mi ascolto tra i giornali, poi lo davo solo. Tu trovate la accesa con tu giù. Ah, ebbè. Adesso Paoletta poco fa è andata al balletto, oggi gli tocca al balletto. E mia figliola mi ha detto, ma mamma ti ha lasciato la TV accesa in camera da lei. E cosa vuoi dire? Io mi ha chiesto l'altro. Ma quando? Poco fa, c'è uscita lei 4:30 ad andare a ballare. E dove quella scuola dove va lì, via la tenuta. E per la televisione accesa in camera da lì. Ma lei sta sempre lavorando tua moglie, grazie, o in pensione anche lì? No, in pensione va all'altro anno che fa 62 anni. E la pensione casalinga, però già ne ha Marchese che aveva lavorato. Poi vediamo quando era un tempo gli ha subito buonissimo. Oh, le richiedo all'Impisi e gliele aggiungeranno alla pensione casalinga con le marchette. Penso che facciano così. Le danno la minima, là. Non lo so, lei ha lavorato a San Camillo, tiratrice, nella lavanderia. E più in via Milano, dove ci sono quei capannoni, lì c'era una stileria di Pes Antonio, era un capannone, lì stilavano la roba, andavano quel furgone, no, agli alberghi ritiravano le lenzuola, anche nei ristoranti ritiravano le tovaglie, lavava l'edda, le pranciava. Aspetta un attimo, grazie, a due secondi, aspetta. Ehi, io... Finisco a chiacchierare. Ma cubare, ma già tu hai, che ti ho sentito russigenni. Oh, aspetta, stai brillando da chi suoi, ma sì, era Luca semplicemente, mi chiede un Luca Flippe a Cilenni, mi guru caschetto che ha cubicato fusili, pistole. E tutte verniciate, belle, proprio belle, un campione, è bravo, è diventato bravo. E cos'è che ha verniciato? Un caschetto per andare a caccia, tutto con gli alberi, le foglie, a caccia grossa, di cinghiale. Poi fucili, i calcio, no, il calcio in legna li ha verniciati. Un bel di roba verniciato. E mi ha mandato dal grezzo al nuovo, come gli ha fatto, è belli, belli proprio. Ehi, ci sarà da fare allora. Fa bene. E il lavoro bisogna pensarsi, lo sai che i tempi sono duri oggi, e se non trovi i venti non lavori, lo sai. Quello che stavo dicendo a Luca Manicomio io, un impresario si deve adattare, devi sempre cercare, migliorare, chi su quello di Zenna, Luca io. E anche quello è un buono, magari con quel lavoro potrebbe anche sfondare. A Sassari non vengono i giochi, fatti i sigosi. Ci deve fare un po' di pubblicità, da. E con la pubblicità potrebbe anche tirare avanti anche abbastanza bene, anche. E piano piano le cose si fanno. Non in tutta una volta, capito? Piano piano, col tempo suo, e non dà sicuro che si riesca a sbancare, hai capito? E allora, un po' di pubblicità già ce la sta facendo anche lui, su Facebook, e io glieli condivido, gli mando agli amici, quelli che conosco, e loro altrettanto condividono e arrivano agli altri amici, così gira la cosa, capito? Poi se c'è quello che gli interessa, lo chiamerà. Eia, va bene, ma chi so, Tore, se sentito? Tore, mi pare la giubilca in bicicletta fosforescente, in caschetto, pedaleggi. Ma chi so, mi pare il separato diventa una gavra a fiori e non riesce a esinibire. Bisogna piano e spazzerà Dio. E vabbè, Tore perché è giovane, ma chi di certa età, per cui ci vuole la ruspa o il montecarico a tirarlo su. Tore, faccio l'impressione che ha da Reggio, Sagliato, Rugani, e Rugani gli ha dato il cu di un mosso a curva a farlo pedalà. A chi di Rugarellino, no Rugani? Un impegno c'è, un impegno che ci dà da fare veramente. Però, questa qua la radio la sta abbandonando, mi sembra, e mi sembra che si fa digitale questa volta. Bisogna tirargli la Recci, grazia. Cade l'incendio, tira la Recci. E che non si va di così, si batti. E allora, per la giudizio, antenni, contrattenni, vanno a testa cabicciuglia, baraboli contro baraboli. Gli hanno poco di cose. Ha fatto un macello, ha piazzato, tutto correndo, tutto sudato, tutto affannato, e da voi non si intende più. Ma l'emessa ce l'aveva? E allora il caschetto ce l'aveva, cubicato da Luca. Ah, pittia, stai attrezzato allora, Stai attrezzato, hai visto? Le scarpe avanti, i pantaloni avanti, capito? Oia, questa è la volta che va anche a fare il giro di Francia, Li botti sono lampeggiatori, funzionano gli arancioni a lampeggiatori, vanno. Hai già appena parlato, è stato il lampeggiatore, andati ad Arezzo. E allora? Se no vai il vembuccio di rampare. Cazzo. Ah, boh, se ho tiravo la fotografia e rubolimo il coso, in prima linea. E allora? Lui lo... Di Francia lo devo mandare a fare, perché se mi di lavora a goffa. Dai te, bebe, Tore, bebe. Ma chi io? Ma chi sa cosa si ne ha fatto? Ui, sta giusto che chi se 30 una gara a fiori e non riesce a scendere da 30 anni. Ma io vi fra poco farò delle bottiglie, una cara, passata, poi lampano un rampino, ma cantarlo. Bisogna fare a casa però, a chiamare fresco, bisogna casino un poco, ma i cigni. Giannici, la ganza ne vede, a voi ne ruggita lì. Dai, fe, uia. Luca! Ma come ha detto 2 minuti, che c'è pieno di golpi? Oh, sono qua, ciao Giovanni! Ciao! Cos'è sta facendo? Ma di che desese? No, sto giocando a un gioco con la mia 25. Ah! Ho capito! Attenti! E scommetto che tu fai il ginecologo, bello bene! Io faccio sempre ginecologo. Hai capito? Quel giochetto ti piace, Birbantello. Perché tu lo giochi con Rosi, ginecologo fai? Giomari, voi te lo sei buffo le case dell'Ana. Tu lo vado già fatta, va. Tu la mai da poi basta. Capito, poi si boccia vaso, vero grazie a confessa. E allora, mila tre, se no che funziona, 24 su 24, mi bella me. Davvero, stavo di no. E allora, altri immaginati, Luca. Oh, Giomari, c'è la tenere che non li vedi. Grazie. Oh, adesso ti rimando una, la vuoi vedere? Cos'è che hai mandato a proposito? Cosa mi ha dato? Cazzo, per la mezz'ora leggendo. La mente, che tu te l'hai mandato? Ma cosa mi ha dato? Ricordo. Ciao Mari. Manco un viaggio intendi più isso. È sicuro. Faccia la uscita. Dai, guffeccia, ti grazie, gli altri assioviamo noi. Non c'è niente, cosa ti ho mandato? E più, tu mi lo sto guardando adesso. Allora se gira il collo, coca. Dai, grazie, confesso, ormai non andrà più, non funziona, non di più, dai, ormai c'è. Cioè, poi solo chiacchierare, E allora, infatti chi darò se il codimi ci darò del razzo o darò bacconi? Giovanni, ma lo so, ma lo so fuoco non ce la metto. Giovanni, guarda questo che ti ho mandato adesso, se ti piace. Aspetta, io guardo a vedere un po' così mi hai mandato. Intendavami cosa dici, Luca? E chi, Giovanni? Ehi! Ma gli hai mandato il figlio di Luca? No. Donne nuda gli hai mandato? No, gli ho mandato i miei gioielli. Ah. Vabbè, quando non li usi più fammelo sapere che li sciogliamo, eh. E allora, chi m'accusa? Quelli faranno da eredità a eredità, eh? Ah, quando muori tu passano ai tuoi figli, poi quando muoiono i tuoi figli passano ai figli dei tuoi figli, così, E viceversa. Se sono ricordi, allora è vice di babbo. Ci vado, mi devo quindi a chi scemo sono. Mia, aspetta, ti mando la cipolla, te la mando. Manda. Ah, cioè te la prendo e te la mando. Poi mi dici se è oro pieno. La cipolla di prezzo. Cazzo, frizzati colorati. E allora? Ma cosa è la droga, Ivi? Chi ci sono da baffone, proprio. E bambini regalati. Ma noi dice spaccendi, no? Ah, grazie. Aspetta che lo sto posizionando, bene, così te lo mando. Mio marito, su lui è spaccendi, mi graziano, zucchero a velo. Ah, salva. Ti ho fatto il bici, tanto lo sappiamo come c'è, no? Ecco, ma non c'è compagno di tutti gli sai, se non si crede la sera non entra nessuno. A furani di loro. Carità, io graziano. Ah, comunque gli ho fatto un bel regalo, a parte gli scherzi, bello, eh. A me gli anelli non mi piace, preferisco più un bracciale, dai, una collana. Ci ha fatto un regalo? Gli ho fatto un regalo, mi ha detto, boh. Speriamo sia un regalo bello almeno. Sì, ha voglia. È più che bello quel regalo. E ci sono un po' più cazzo, dirai allora, di donna le dirà, per cui messi i suoi orari, cazzo, per cui a fare, se vuoi bene, fratello, vai bene, aspetta che mi lavo la faccia, da giù, si aggrava che mi vende, boh. Luca, vado un graffetto, mi metti già giù. Quando sono in moto? Che tu? Quindi tu puoi andare in moto tu? Ah, vero? Ah, Giovanni ha regalo, state la bicicletta, tu? Cos'è, Lu? Giovanni, Luca ti ha fatto un casco per Natale, per la bicicletta. Ho capito. Ha giudito che Luca ti ha fatto il casco per usare la bicicletta. Oh! Ebbene, è stato il genio! Allora? Lascialo fare. Stai imparando? Gliel'ho mandato su WhatsApp, ma lui non lo guarda. Oh, fino a me! Grazie, ci dati! Sì, ti ho mandato le foto su WhatsApp. Oh, ecco, vedi? Io ti ho mandato dei messaggi, ma non mi rispondi, a tu va. Ma si è iniziata la glicemia o sul senso, comunque ha chiamato i fiori, e invece è ancora vivo, dai. E allora, mi sono messo in condoglianza, mi ha mandato. Luillo. E infatti volevo chiamare la tua moglie per se mi se eri deceduto di prendere, venire a prendermi tutto quello che ti è rimasto lì. Ah, e lui? 740, 440, 80. Non dirà nessuno. Gli alimentatori che hai. Tutto. Vieni a guardare in chiesa, la TV, quella smart, se mi serve per caso. Luca, guarda se te l'ho mandato su WhatsApp, mi sembra. Download in corso. Della foto in corso. Su Messenger me l'hai mandato. E anche su WhatsApp. Grazie. Ehi, dimmi. Quella carica dall'alto, ovvero? Girando quel pomellino in alto. Che cosa? Quell'orologio, che cosa? Ah, ehi. Tutte e due. Due te l'ho mandato, uno solo. Una me ne hai mandato, di fondo. Ah, se ti mando l'altro. Io ne ho una di queste qua, però è rotta. Cioè, anche se giri non succede niente. Capito, è vecchissima. Guarda, se lo porti te lo mettono a posto. Allora, ecco qua. Te l'ho mandato due adesso. E me l'hai mandata precisa la prima. Ah, c'è vero, uguale. E allora cos'è che c'è? Che non ti ho mandato? Aspetta. Allora. Quelle due sono. A me mi ha mandato una fotografia con l'orologio e l'altro cos'è? Un cuvacco, non si comprende. L'altro è il tappo di questo orologio. Ma cos'è, Grazia? Una cipolla, oro bianco o oro rosso? Uno è l'argento, quello vecchio vecchio. E l'altro è d'oro, quello è di papà, tutti e due era. Questo d'oro c'è anche la dedica dentro. Questo gliel'avevano fatto come regalo i dipendenti, i colleghi di lavoro. Infatti c'è scritto all'interno la dedica da parte dei colleghi di lavoro. Ah, ecco, ho capito. E quello gli hanno regalato gli amici suoi dove la Fiat, il babbo lavorava la Fiat, capito? Ma è in plastica è grazie al vetro, perché quella che ho io è in plastica il vetro. Sì, perché quello della cipolla d'argento, quello gli avevo portato a cambiare il vetro. E infatti c'è una scheggia all'interno, non nel vetro, no. Nella ceramica, il quadro dove ci sono 1, 2, 3 scritti alla romana, quello lì è di ceramica. Tu pensa che c'ho orologi di mio padre o di mio nonno addirittura, che, ma vecchi, ma non ne funziona manco uno, capito? E in più c'è questa cipolla qua che lo stesso è ferma, anche se gira, non gira, ma non mi interessa neanche a ripararlo. Mi piacciono, capito, però chissà quanto cosa ne fai, tanto non li tratti. Ce li ho su, mi soffitto. E neanche un altro conservato che c'è, è delle strade ferrate sarde. La cipolla uguale a quello d'argento. Prima si usavano tantissimo, ma poi adesso le stanno rifacendo uguali, naturalmente mi sembra diverso, però le vendono, guarda, i cinesi le vendono uguali. Ma non c'è fino a lui, devo usare quei buoni, un ghito, ma a buffoni, e poi non sono originali, questi sono proprio originali. Anzi, quello d'argento dietro, c'è lo sportellino, no? Ci ho messo la fotografia di Paoletta. E da cinesi l'hai pigliata? Ma da cinesi, sì, era lì di babbo, di la buon'anima. Ah, beh, pare che roba cinese, c'è cosa, ragazzi. Ma chi è? La giubizio vendete, precisi. Oh, domani ne parli con Rubicio, boh. cioè, cosa? Busta fatti per dentro qui, l'ho visto l'altro giorno, l'aveva una vasera di tutti i colori, e sembrava oro, sì, oro di Bologna però. Chi che fa Mustafa vicino alla Goffo, ma no chi? Ce lo so di tu un oridoso del genere, e lo vedi. E se lo puoi vedere tu fa fusa. Bene, non che te la vedi la bassa, con gli occhiali. Oh Luca, libero! Cosa so che fa? Ho capito cosa so con le tre affari. Cosa so? Come cosa so? Ma quella Lucia mi sembra un uovo bianco. Ma lo vedi che non è matti? Cura che gli ho fatto. Te lo ricordi quel caschetto che mi hai regalato? E beh, quelli so. Quello lì è... No, ti ho messo tutte e tre le foto dello stesso caschetto prima di cubicarlo e dopo. Belli, belli. E cosa hai fatto? Tutti. Bravo, bravo. Ti devo la guarisca, va. Aiutiamo, grazie. Aiutiamo il diploma a Luca. Se l'ha già guadagnato il premio, Luca. Bravo, Dai, bravo, Giorgio, bravo. Ehi, lavori, lui ha ce l'ha pazienza. Ehi, Luca, che Luca... Luca va... un altro rovino l'arteria. Luca, ma sto... Ora Rai 3, Lu, come stavo facendo il Mari? Il passito. Il passito. Ma passito. Sì, così piante da temi. E ci si è colizzato. Hai capito? Lì sì che fanno il buono il vino. E dentro i mesi, già non avanza manco da quei tre mesi. A paita va, che ti ha già mandato la macca, burro, se lo vedi. Medi in Cina. Beh, lo vedi. Beh, sei tomato in Cina. Vai. Pone gli occhiali, mica sono andata alla banca, le vedi gli occhiali. SF, cosa vuol dire? Ma il voto, Marò, chi sono in oro si vede i mari? Ma lì se non è tutto oro, sarà misciato l'acciaio. È sarde, quello è quello di Dreni, di Mezziu. Il cantante è Chelo, il cantante è Chelo. Ma grazie a quello color oro, non è tutto oro, se l'ha mischiato con l'acciaio. E allora, chi c'è oro, mi vuoi dare la mia grazia diretta, 2500 euro, una di sono cazzato a vedere quando me lo valutavano. 2500 euro, gli ho detto a quella ragazza che c'è lì, e non c'è altro. Dice no, e perché non vanno bene? Non vanno bene, ma sai quanto costa? Scatta 2500 euro, un bel costa quello. Un bel costa, pesa pure un bel, non ha giù preso. Ma tu devi dire quanto pesa l'oro, no? Quanto pesa tutto quello di loro. 2500 euro, minimo 2, dammi li guadagna 1000. Grazie. Mi ha detto, poi quello lì, una volta che va pulito, libera te pulito cosa, che tu questo ce lo metto rapidi, ce lo fai indinare, così come te. A chi cosa mi dici, se il bacio a oro vecchio, ma scema di guerra, sì. Io te la posso. Pomponio! Sì, buonasera a tutti. Comprò una busta in un casello, ma nel mandato io sta poco distante. Stai colorato, dici bene di paolo. Aspetta, ragazzi, tu sai questa cosa, tu fai milioni. Niente, Ciao, ce la dici, grazie. È sicuro, sai che tu non hai di chi sta roba così. Magari a te ti lavorare in mancato così, pazzo. E se noi da Rico, da amici miei, la ci ho fatto piglia roba, e non vedi cosa la ci ho fatto piglia io, che c'è amici miei. E di la pesce è pazzo. Aspetta che fai, allora poi tu fai un riso, c'è stato vice, e fai così col fratello. E allora, compro e non si vendo. Dai, dai. E beh, Luca, caruta sei, e io. E no. E chi canto voi guadagnata il suo ridotto? Oh, cazzo, ti hanno dato 2 mesi con il tuo vino e non l'hai voluto. No, oh, nulla, non me ne sei finito. Oh, se non ricordo mica me lo vende, cosa paga mai biglietto? Così te lo ricordi bene, no? E vai, che ti dinate, rimani, e da poi non hai, da poi ti dinate a entrare sempre, non c'è bisogno che mi vendo nulla. Intanto l'hai regato a comproro, quindi l'intenzione di quella vita, quindi sì, e la verità. A parte che io, papà lo sape a te, ti dà gallare, anzi, addirittura vi lascio in cucina piccate, a parte da vedere. Ma, Giammaria, io non l'ho mai vista piccata. Dimmi, Luca, la trovi non vorrei entrare in occhi, no. Ma faccio le nuove telecamere e si vrisso. Sì, grazie. C'è già per i zingari esperti, i tronvisi, e se ti sentano, a tue telecamere, so. Oh, ya, per carità, stai attento. Io dove un Doberman. Bucci, la cara. Uno vuoi la cara e uno è Trento. Ah, ti conviene a questo, a quel primo con l'ossigeno. Oh, sì. Oh, chi è? Io si vuole morire a cara, A posto delle denti pare Gesù, Iva. Rita, bello. Sì. Grazie, sì. E dai, caro, la faccio graziare. Oh, yeah. Io che ve la telecamera a piombo. Però che non ho la puntata davanti alla porta, la puntata davanti alla porta non c'è lì. Ma giù in rada, poco di trombife. E siamo quasi in gara a ciappi, che si maggiuri, che sappiamo se la lea l'accuso, se la parte della collana a te. Ehi, io che va piombo un bei. Ma c'è perché si zingano i grossi? A tipo Luca, mi la bisimona, sì. Ma le piace di poco, organi miei, in campagna, chi si mi? Ah, e ti strangoleggiano con la pompetta dell'ossigeno. Ehi, ma lo sai che sono stato cucino per la lupara? Grazie, grazie. Che ti saranno in ossigeno, sei buttito qui. E allora, è sicuro, gli abbaggio di sale scorta. Ti saranno un rubinetto. E poi che sale scorta, sono stato retto. Non sprai per la mocca, scusi. Senti cosa mi sta dicendo questo qua, diglielo tu. Claudio, picchiali. Ha ragione Luca, grazie, sta attento, che ti strangoleggia, righisci, con un gocio, con un tubo di ossigeno. E io li brucio. E brucia, li brucia, manco fuoco biglia, righisci, da un bingo che va in alto. Sì, sì, a portata di mano mia, a me non ti davanti, va, che un mazzetto. Così là, è un tagliaossi, vedi maduri, pronti all'uso. Va, tu fai un caso, se vendi ossigeno, no? non ti rabbizzi, nell'attimo, diciamo alle rosse di Moni, non ci sono deciso dalla cucina. E tu sì, che prendi ossigeno, non ti rabbizzi, adesso quanti dici drommi, ui, una bellezza. E vai, io trovo con l'occhio, un occhio, prima uno e la poi l'altro. Giovani, anzi l'altro buongiorno per gli anni di tutte le dirà. Così li dovrà fare, li dovrà bussare, a cucciarli di gossoli. Insomma, la gente è venuta. Comunque, secondo me, davvero, mi ti sangura c'è con un tubo dell'ossigeno, grazie a occhio. Non fidarti assai. E allora, l'ho perso proprio. Allora ti mando la foto di Rumacette e di Rosalini. La bombola di giamba, di Luri, buona chissà di Rugassi. Davvero, me. Sta attento, grazie, mi raccomando, me. Dai che stanno infrangurati, tutti sarrani dentro la sua pappella. Tanto prima le giambe della bombola e di strangoleggia la buca di buona di chissà bionda, lui. No, si è messo come tra panca. Un paio di viti, e non riesci più neanche io, un abitatore, un paio di viti, che c'è da sello, è fuzzito, eh. E poi gli hanno detto, mi sa comprare, ma non volevo dire, non pollice. Non è un cazzapanca, Luca. Ah, ti ha fatto la madre Giulio. Luca, non è un cazzapanca. Niente già Claudio, fate la palla a Matron Giulio. No, ce l'ho buttata dalla finestra quella che ci aveva, la mia di Cattarani. Cazzo voi va a vedere i zingari, cazzo che non vuole non deve vedere i cazzo e la cazzapanca. E allora, lo sappia così la cosa di India camminelli. Ma io poi c'è un terrazzo, la smonto, ne voglio con un doppio fondo, io pensavo che era lì di là, a chi era di lavorare, ma della nonna di mia moglie. Ha giusto una marea di cattarani, la ripiccata se la giocata da un terrazzino, da un quarto piano. Ah beh, non canti, vuoi va a fare un gettito di gocio, di gazzina. Ah, cla, secondo me... Chissà che sta a panca è della marcia da che cosa, tipo un pezzo di salsiccia, un pezzo di gaccio, e se ne è mai andato di Cattarani. E beh, scappa ci fanno allo sporco, o dove c'è umido, e ma è possibile una cassa a panca ci viene ai Cattarani, cazzo di albo. Asso che cosa, i campeggio e zinca c'è tu. No, non era mia, era della buonanotte della nonna di mia moglie. Quando sono venuto a abitare qua, c'era già quella casa a panca. Però era bella, era tutta intarsiata, antica, no? Era bella come sicca, però all'interno non l'abbia mai smontata, io a pulirla, a farla. E c'erano le gaddarane dentro, infatti ogni tanto ne ammazzavo una. Ah, quel periodo. Lo sappia da un iniziale si cattarà, l'iniziale da chi vi trento. La cattarà, vedete, c'è. La cattarà da trento, qui c'è la più, quello di molto trento. No, cattarà, eppure se la vedeva la bella, tutta intarsiata, di chi gli antichi. Ma è bello l'hanno dato agli acoli catalani trento, grazie. No, grazie, ma se tu usi la macetta, poi ammazzi, sei fuggito, andiamo a finire in galera, e non ti vai da voi, fuggito sì, non ti conviene, Vai, io se lo vado in campagna, se lo cuto 30 la vostra zittica, da poi attacco questa bomba che immagineggia, e lo posso immaginato. E te ci ha detto Luca, te ne andai a col Cattarani, detto me, vuol dire verano morso. No, io la giù di mutata avessi verani di là, gioielli, invece mi ha già avuto i Cattarani. Sa giù, ha giù pigliato e se la giù buttata dallo terrazzo, dal quarto piano. Arrivi da terra una bomba, Maria, tanto non pigiava nulla. Quello era il segno del destino. A chi prima ti strangolava nei conosciuti, ho potuto discutere dentro la caccia a panca a mezzo di Cattarani. Ma con la caccia di morso, con un morso trento, bisava come che bisava chissà. cazzagno ida. Ma Alberto? Sordi. No, Alberto Castagno. Sordi. Però era bella, mi hai dato tanta anziana, poi me ne sono pentito. Ci vediamo nella medicina, quella oggi come oggi, all'antiquariato valeva un qualcosa. Ecco, le catalane ti avevano dato anche un chilo e mezzo di fiume. Ma perché vuoi buttare via le portoce da un amico tuo? Grazie, oggi ti avete dato la caccia a pacca con il gandarà. Ma chi c'è il ladro e giriato un burro, cado la regga la roba te la controlla. Ogni minimo, grazie a Tino che bene, te lo controlla e va di cosa, gli arriva di più roba a me. Io, grazie. Oh Luca, mangiando stai? Ma chi io, no, io. E Giorni Maria caduto, Ah, ma è da che fuggito me, e perché devo qua per attenere che fai così? Cosa, adesso si ha posto l'occhiale ed è a mettere gli zioti che l'ha mandato. Mi ha detto che sono di Marocchini. E beh, cosa stai facendo Luca? C'ho un gioco grazie al telefono, io quello di parole, dai, sto giocando lì. Ogni tanto rispondo a voi, ogni tanto cerco qualche parola. Un tizio in Sicilia, parola. Ehi, a cruciferma, una specie cruciferma. Sì, più cruci è verba, più verba è cruci, dai. Ehi, chi giù il comunicatore che fine ha fatto? Sì. Il cubicatore, il cubico. Questo rimane, sicuramente è sempre il parenti, ha fatto un furto, mio occhio. Inteso, è che sul caschetto mi aveva dato Gian Maria, papà Nicino, quando andate a fare i travagli, tu l'ha cubicato. E ha detto che è caschetto da caccia grossa, caccia cinghiali. Così lo sparano. E beh, Tore non si è sentito, Tore a CC. Claudio. Dimmi, grazie. Non hai sentito per niente tu, Tore? No, io ho solo le vue, le vue accese, no, non ho sentito nessuno. Solo a voi e basta. È un paio di giorni che non lo sento. Sarà indaffarato con i cani. Mi sa di sì. No, mi pare che ne ha uno cani. Così è Luca. Io non l'ho più sentito, ma sta male. Non penso. L'ultima volta la chiave. Anzi, devi andare a farci un vaccino, Fabiano. Non lo saccio, Graziano, non lo saccio. Non lo so. Io poco ne sto accendendo il baracchino. Faccio poco tempo e poca gana. Mi, ogni tanto lo faccio sentire qua e buh. Ma ti stavi facendo la recensione con quei pannelli a gratta, quelli lì. Stamattina abbiamo finito, sì, sono arrivati l'altro giorno, ho arrivato il camion, la via H150, sono da 1,50 m, so, 1,50 m per 1,20 m. No, o 1,20 m per 1,50 m, no, meno a mezzo. Sono tutti a bulloni perché hanno i paletti tutti che vanno bullonati. Tutti. Cazzo, ma ci buccato pensa che un dito con un. Adesso che c'era che caglia di ferro. Ha buccato un dito. Proprio il pollo, ci hanno giù uno quarto di bulle, ci bullata va. Ci voleva un punto, ma non ne ho messo. Ci ho messo una graffetta, mi ha messo il coso lì, la campagna. Sì, abbiamo finito oggi, grigi, belli, belli, abbiamo finito stamattina, infatti oggi un drone di China, cazzo, non la posso più. Già li conosco, ne ho piazzato parecchi di quelli, a Buglia, però un consiglio lo vuoi? Dai, i bolloni adesso che sono piazzati, sfasali o se no metti un punto di saldatura. A chi ha già canto un'indrangine di chi si ferriate di gusci? Grazie, se un punto di saldatura. Non c'è l'età, Canto c'è il grancio, c'è il minerale di luce, non c'è l'età. da Alberto Frazzante. No, scusa, ma stiamo a San Napoli di Bologna. Oh, ce la prende l'occhio. Qualcuno di scorta già mi sta mano lasciato. Va bene così. No, ma andiamo a bordo. Mi sto già stufando. Non ne ha più di una. Non si aggrappa più. L'altro giorno ci hanno... Allora, quando è? 2 settimane fa. Abbiamo fatto quelle 2 giornate belle di sole. Avevo già fatto la domanda alla forestale. Sono venuti una squadra, prima controllata, eccetera. Sono giunti con 2 camioncini. Con 2 camioncini a becchi. E hanno tagliato 3 eucalipto e 2 pini. Che praticamente andavano dall'interno. Erano anche pericolosi, li hanno cimati e tagliati. Si stanno buttando, mi pare, anche 20 o 30 quintali di legna. Infatti questi erano pericolanti, è fatto bene. No, ma poi sporcavano tutto, cioè... Conosco il comandante della forestale che è di Nulvi, e io ho lavorato per tanti anni a Nulvi. Mi ha detto che mandava a vedere se si poteva fare, sono venuti e l'hanno fatto. Ma non c'è la linea che stanno portando. Quindi quello, a pulire tutto, a fare, a bruciare tutta la vraca, a lavare la recinzione. La prossima settimana dobbiamo venire a terminare tutto sopra, dove ci sono i pannelli fotovoltaici. Non i vogu bene. Non lo sai così in campagna, quando io ero in campagna, per se freghi fa, tu ne santa di, o a destra o a sinistra, e da voi se sa contare all'esterno, va più buono da fare all'interno della casa, e tracci, e disco, e chidatro, e bagni, e placcaggi, e pavimenti, se freghi fa, in campagna è così. E poi è il periodo di tagliare l'erba, devi tagliare l'erba, devi pulire in giro tutte le piante, poi viene la riva, la riva accogli, e la campagna è un travaglio. Oh! Non ha giovane battagliaio, non ce n'è. È tutto, ci sono 2 prati e poi c'è tuo piazzale cemento. No. Non la giovai poi da riva io, la riva, andiamo al compareggio, a tutta scema della riva. Però c'è sempre da fare, tanto da fare. E quella non è una casa di campagna, io vivo in campagna però, una casa grande. Casa grande, c'è da fare un bel. E vabbè, piano piano. Cosa hai detto lui? Io ci grazie male prima, tutto così. Ma io sto facendo male? Non ci toccato nulla io. Adesso no, ma prima sì, vero grazie. Ehi, ma magari sono interferenze, boh. Però già sta uscendo qui. Ehi, faceva tu, però già era comprensibile la voce, là. E vabbè, ma non agisci tu no. Questo è 820H, io voglio dire proprio per 9 problemi, nuova, comprata l'anno scorso. No, ma magari sono dalle onde e saranno, sarà passato da caere più bacio. Stamani era cerato in giro di 5 minuti ho contato 8 aerei sono passati sopra i nodi, una presa all'altro. Grazie, ci sono bene, sono compari, grazie, già sta appena, poi sai così bene. Adesso non è uscito nessuno, solo tratteggi. C'è già sta appena, poi ripeto, sparito. Un pugno, Antonello c'è, ma non ho capito, esce basso di radio, cosa hai detto Antonello? Che poco fa uscivi tratteggiato, adesso esci bene. Tutto tratteggiato, Guido ha detto vera nelle onde, bisogna stato maestrare. Ah, non lo so se c'è la maestrare, c'è un freddo fuori da crepare. Andava bene, comunque ascolta tutti, ho girato da Geggio alla Teloni, almeno vi ascolto, se no era un casino. Tutti dico gommino di là. Sta sorella intendo un bel tema, ma piovendo sta. Luca, ripreso. Non mi senti, no? Tu immaginati che a me mi arrivano tutti a fondo scala col portatilino, con l'antenna in gomma. Tutti a fondo scala mi arrivano, tutti. Luca, Filippo, Gio Maria, Graziano, Luca, l'altro Luca, tutti a fondo scala mi arrivano, tutti. E tu sei Santiago 5. Santiago 5, sì. Gli altri sono tutti a fondo scala. Io sono con il tortino, Mistri, ed è coricato sul tavolo la radio, è messa di traverso. A fondo scala, sì. Ehi, Antonio, 5, 7, 8 a volte, non arrivi più di più forte. Tu, eppure, come hai spostato il posto, adesso ascolta tutto, figurati, sposta anche a Luca del Monte. Io sono con la verticale piccola, con una X50, più. Capito? Non sono attaccato a te. Mi arrivi 7, 8. Tocca a presto. Faccio bianco, 5 minuti, riprendo dopo. Vai, Graziano, vai. Lasciamo gli occhi lui. Sto provando a accedere il computer per se funziona. L'ho portato anche l'altro computer. Adesso proviamo a vedere. No, se la può mi dare un cascionetto della mondezza. Tanto è vicino. Comprati un portatile, quello lo usi per le radio, un portatile, claro, non sbagli. Lo so, Lu, ma non ne uso. Tu immaginati che quello nuovo l'ho preso da te. L'avrò usato, sì e no, ecco perché stai iniziando, che ti fatti adesso, settimana ti chiamo, te lo porto e lo pulisci. Capito? Ecco perché sta iniziando a essere lento. Perché quando me ne date una schiccia. Perché non lo sto usando, deve essere pieno di biuvaro, dritto, tutto. Capito? Poi nella cameretta c'era la radio a carbonato, ho già smontato tutto. Prima era L, adesso è una linea solo perché radio non ce n'è più. Le ho tutte impacchettate e portate via, capito? E quindi magari un biuvaro, una cosa. Non ne uso lui, io non ne uso i computer, non sono amante dei computer io, non ne uso, entro mi qualche volta a fare qualche così ricerca su eBay o a guardare le mail che avevamo in barre veneziane 200, non me li fate più cancellare, non ho compreso una cosa, infatti quando te lo do sono tutte mail di Gosi, Gian Fusaglia che mandano i tutti gli gargardi. Ti do la password e me le cancelli, capito? Perché non me le fa manco più cancellare, non ci compri sopra cosa. Strano, allora se lo devo a cancellare è un problema di loro, capito? Vabbè, comunque, sono problemi. Quando vuoi, non problem. Ho detto, lui stava piazzando questa recensione. Adesso mi domani mattina dovremmo finire qualche altra fesseria, poi mi riprendo l'autoscala, mi faccio un po' di pulizia a casa e basta, poi ho finito. Così poi ti chiamo, vengo e te lo porto il computer. Capito? Vabbè. Ma non c'è più gana, no? Ui, non voglio più fare niente, finiti che ti travagli, mi fermo, boh, ci abbigliano i locci, ho fatto un minuto. Certo. Vabbè, claro. Piano, quando puoi già sono a casa, non c'è problema, lo lasci, che te lo faccio. Perché se lo lascia sono qua, me lo dovresti portare qua, me lo faccio qua, boh, come vuoi. Dove ti piace te lo fai, Olu, io te lo do, me lo pulisci e poi mi chiami, scendo, me lo riporti, o scendo, me lo prendo, capito? E via. Vabbè, dai, rimango in quel rix, 2 minuti, che mi mangio una cosetta che manco pranzato, proprio giusto per a fare merenda, mi faccio una fammi, c'è qui Gico. Ci sentiamo dopo, ragazzi, divertitevela. Via, allora anch'io mi sposto, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo, allora. Grazie, ci sentiamo dopo. Ehi, a dopo, ciao a tutti. Adesso il segnale è stabile, sto usando la verticale. Adesso si affondo scala, l'ha giunto qui Sant'Enna, la pazzia è un gomo, c'è la direttiva. Adesso si affondo scala. Sì, ma lo sento a Luca, invece con la direttiva Luca lo sento benissimo. E anche gli altri. È puntata verso di loro, capito? Ah, ecco, forse quei gradi che togli a me li dai a loro. Quindi si abbassa il segnale. Poi la polarizzazione verticale, quella lì. Lo so. Va bene, va bene. No, adesso si fondo scala, dai. Ci sentiamo dopo, ragazzi. A frappè, ciao. Andati. E c'è il fraccendo? Ti ho mandato a Ghida in fotografia con la musichetta. Sì, già l'ho visto. Poverina, sarà nelle verdi praterie adesso. Ah, vai, scorrazzena, tutto scorrazza. Capito, sì. Bello bene. E cosa stai facendo? Sta la mano all'altra! Di una mano la devi dire farò! Se non ti tracchi! È vero! E allora, chi è la Luca? Luca! Però per bisogno della mano all'altra! Hai mandato un video di Lucagnolino a Luca con la musichetta, a vai nelle praterie verdi scorrazzando, a tutto scorrazzare. È vero. E che lei dice bicicletta? E che bicicletta? E non hai detto così. Ho aggiunto che scorrazzenti nelle verdi praterie. Ti ho compreso. Un cagnolino. Ehi. Ma questa la c'è, grazie. Sì, e poi mi cruci verba e camera la rete, è venuta dal balletto. E adesso si sta riposando. Allora è stanca. Sono quelli riprovi di questi balletti nuovi. Lascia riposare. E la farina non vi andò da qui, non aveva gara. Oggi non vi vorrei andare, infatti la giusta andare, cosa si fa che ne fa? Vai, no, se non hai gara, si può dire, guarda, se sono fatti dei balletti nuovi. Se no da voi vedi l'ufficio. E allora, se non è ticchetto da voi, capito, fai l'ufficio, E da voi è una questione seria, No, chi era più brava, era più piccinetta, era più brava, così l'ha distruita. Ehi, vabbè, va. Ah, sono qua che mi sto guardando un film. L'ha distruita la sua, la televisione, e ha sentito la stamane, da voi l'ha distruita, che ora era mezzodì. E però ha accesa la 1 e l'ho spento alle 6. Ma io no, te la dico, l'ho fatto. Ma guardo solo la sera qui simile. Dalle 6 in poi. Ero sempre muro. Ma lo mandano da cazzo, che mi ha messo le ore giornali, lo mandano di quello da cazzo. Non mi sto occupando, ogni tanto a paese si fa qualcosa importante, facciamo canale, capi? Però noi che me la fai, guarda, ascolto, se sono in cucina. No, sì, la bevo un poco, non è che la... Allora, per esempio, fino a saggio me la paito, ma durante la via, veramente, che ha preso la commissione. Sì, va, sto mazzando in giro, sto in giro Mattesi, devo fare la fatta buona domani. E cosa devi fare, visita? E non mi sa cosa mi devi fare quando con la fatta buona. La fatta buona, ma la visita devi fare. Devi fare, me l'ha chiesto oggi. Mi cognata il numero per pigliarsi l'appuntamento. E gli ho detto non ce l'ho, mi sembrava che ce l'avevo, invece non è avevo. Gli ho detto domani mattina chiami il cucco e te lo fai dare da loro, già te lo dicono, per prendersi l'appuntamento, lì a Platamona. Ma allora l'abbiamo in baugli. Si fece fare interfati che la dottessa non veniva oggi a farla domani, allora faremo domani. E già ci sono andato 4-5 volte anche io lì, anche a Porto Torres. E va, e vabbè, infatti no, che non venne in sacca. E uscì, no, io devo andare giovedì a Alghero, dalla nefrologa, di visita. Ah. Allora, all'ospedale Marino? All'ospedale Marino. Io vado sempre lì, per il rito. Io cazzata, non vi so buono, sono una massa d'aglio. Ma sai che mi ha giù la foto fa e alla Timmy l'ha giurato la disetta, da domani me lo riattivano, così è, così maledito, mi è arrivato anche il coso per internet, ma ci sta cagito e ha staccagito di lavoro, per 2 anni 24 ore e 90 pago. Grazie a me, grazie. Vodafone, a chi la pista sta Dulanca, capito? Dopo 2 anni mi danno aumentata a 50 euro, dici, poi se ti manca, mi la faccio qui dopo la disetta. No, mi danno, ha facciato, guardato l'aprile, il terz'ultimo bollettino 50 euro, il secondo, il penultimo 52 euro, è l'ultimo che ho pagato l'altro giorno, 53 euro, e qui sempre di più. Ha giubilato e mi ha giubato a Vodafone e mi hanno fatto tutto questo. E pago per 2 anni 24,99. Dopo 2 anni, per 3 anni pago 29,99. E ho le telefonate e più internet e tutto. Telefono fisso di casa. Sì, ho capito. Ma la devo cambiare anch'io. Adesso questa qua, l'ho pagata la bolletta. Domani chiamo e glielo dico a vedere cosa hanno intenzione di fare. Se continuano a prendermi per i fondelli, perché mi hanno detto con le 2 bollette dovevo pagare 80, poi mi si andava a 60. 60 mi sta anche bene, ma 80 no, no. Adesso domani chiamo, glielo dico, gliel'ho pagata. Se mi faccio dare il codice di immigrazione e cambio. No, guarda che io ci ho fatto un casino di telefonate a destra, a sinistra. Sì, cazzo che si, ha detto vabbè, chi c'è la bagu, l'altra la giubbarata, ha detto di alla prossima, ma arrivi, non mi ha si preso, ne pongo la vola, si mi ha rifatto tutto questo e non me ne ha fatti nulla, e fino a dici che ti dati alla disetta, no, sono macchino, da 24 euro che pagavo, mi si era lasciata a 50 tutto un colpo, ma non te no. Vabbè, purtroppo si scannano uno con l'altro, fanno a chi fa più offerte, no? Adesso per dire, la Vodafone al telefono mi dà 50 giga, 1000 minuti, minuti illimitati, 1000 messaggi, 20 euro. Perché adesso c'ho 1000 minuti, cioè minuti illimitati, 1000 messaggi e 20 giga, pago 17. Io ce l'ho 3 anni nel telefonino portatile mio, pago 10 euro alla 3 e vado internet, telefonate limitate e adesso non ricordo quanti giga, però io già lo uso il telefono. E funziona per sempre. E dunque, quello ce l'ha la 3, il mio. Poi c'ho quello di Paoletta, che gli avevo dato il mio telefonino, o faccio la ricarica a quella lì, ogni mese 10 euro lo stesso. E quello di casa adesso è 24 euro, no, 25, da. Cazzo, avrà botte 50 euro. No, 53 è l'ultimo che mi è arrivato, che ha già pagato. Io ne ho pagato 76, più 2, 78 euro ho speso io. Vedi un po', ogni due mesi. Adesso cos'è? Dimmi lo stesso. Ma chi io? In for strada a casa, e telefono Vodafone. Io li chiamo Vodafone. Ma va dagli la disetta, tanto non te ne abbassano mi, aumenta e più, a me me ne fate uscire, chi da 50, chi da 52, è l'ultima della barca che ci paga l'altra di 53 quasi 54, ma brava, ma ne dici, però si deve pagare la penale, vabbè già mi pago la penale, non ti preoccupa, però tu non ne mangi di nammi. Avrà vai 50 euro, ma se no. Sì, io ti vorrò pagare la penale, oltre 100 euro, eh. Ah? La penale sarà oltre 100 euro, 120, 130, forse 140 euro. No, che ho telefonato e me l'ha detto, sulle 40 euro devo pagare, più la bolletta del telefono. E cazzo in affutti. La bolletta la giù a pagata. Domani c'ho l'attivazione della Vodafone, dunque devo pagare solo la penale quando mi arriva il foglio con il bollettino. Ho capito. Vabbè, tu Gio Maria cosa c'hai in casa? No, Gio Maria si ne ha bugato, va via, non so che c'è la Vodafone, cosa era. Però a me nel contratto mi ha detto, dopo due anni, e per due anni adesso paghi così, dopo due anni paghi 29,99, 30 euro e vabbè per tre anni dopo. E già mi sa di viaggi. Si da poi carra le burrasine dopo la disetta e si ammazzano. Ma Gio Maria non c'è più. Se la fai tenere la TV, Maddi. Gio Maria! Aspetta, mi sto guardando un film. Che bello veramente, dai! Cos'è di amore? Dacia mi sa che vista due! Cosa si stanno baciando? Eia! Luca, baciando si stanno! E lascia di baciare! E lo voglio vedere anche io, dov'è, dov'è? Luca, dammi un bacino! No, che c'è un alito pesante oggi. Cosa hai mangiato, aglio? Un surico, molto da 10 anni. Un sarrone. Anche qui ci ho insegnato lì. Che mi sono sotto che sono in grazia, ne devo essere solo andando a caccia la luce. Ma chi sono chi mi so? E un adatto che lui, venne da uno... in che piano era? Nel secondo piano, e in un secondo piano l'altra di Belosurico, in occhi. Ho capito, bubu. A chi nata ne da io, sono ai compriti. E in occhi, il piano nostro mio, da un be. La ci porti, due o tre. Ma tuppi o gatti? No, no, sorichi, sorichi. L'ultima rosa è cantarsi chiriata, la ci voglio un bel innato, e l'ha ribigliato un pezzo di Daretto, e lei ha... Sempre la ci voglio un bel incappo. Ho capito, bubu, ma caritai, fuggi che cosa fai? E entrano da giù salgono, per fortuna si è proprio vengo su di oro di arginetti e gli vi tutto bustinoso e logico che si esce dare i buchi che vi so piaga piaga e si sono stati ricali ne è dubbi beh certo e già messo la liana all'ingresso e dicendo che si è chi sa cosa usa un suri che è chi che da un inizio adesso l'ha già guantata cosa si crede se lo va di andare. Atti come ne tiralli, ballo che è meglio. No, è allora. No, e non lo state che lì nel cancello ci ho messo la parte di in basso, la retina c'è. Cioè, si basano i fini fini lungo lungo e si basano in uno spessore di un centimetro e mezzo più bassa. Eh beh, ti credo. E tu mi passano dappertutto. Ehi, ma hai fatto male, no? Tutta tre la giubbotta zecchi. Un paio di anni fa, l'ultimo, l'avevo visto. Proprio vicino al gancino, mi deve essere appena assato. Boh, non lo so. Non lo so, vabbè, comunque. Guarda che topi si arrampicano anche al muro, non li hai mai visti. Io sassarvecchio quando vado a appartamenti, lavori là. E allora il pranzo da qui mangiavo, mi fumavo una sigaretta, me ne imparava già se mi bussavo lui a dire o lo baccone, ma cioè, vedi un risore, chi vi invia Santo Donato, ha piccato al muro a tenna sopra nella chiesa. Ma andate, Trento, quelle mezzolune che ci sono perché c'erano i nidi dei colombi, con lupi. Ma carità, puccica. Non c'è cosa più schifosa del topo, tra topo e scarafaggi. Ehi, rivedi a caipita, oia, o se no in chi c'ha scantinato, vero lo scantinato lì proprio all'angolo o della chiesa, amici, scendendo per in via la Marmo. In la cantonata o c'è la chiesa, vera una liana mezzo tagliata sotto, è vera una liana tu mi ha detto bunia, miau, miau, miau, e io sicuramente che mi sono detto che cacca sarroni mezzo maddù. Una vita la macca di liana, 30-30, intendo che si zicchirvi, dove c'è girare maniata viva, non è più uscita la liana. Gli gatti già si saziano con i topi a voglia, venite da mangiare. Puccica, per carità. Ma chi mi dice che si hanno mangiato la gatta là lì? Dopo mi sentire le grida del gatto, pariano le grida di gente, di una persona umana. Di risicchirli si ha tutto il cagliata, che sa quanti sarroni velani, li sopra incatenate si l'hanno mangiata viva. Ora c'è stavolta a mangiare? Infatti il giorno sono sceso giù, ho preso un paio di macelle e vira giù, attaccate a ciodi da zii, alla iana avvistamento a terra. A che tanto sagliata non è più uscita, o c'è ni sciani di sarroni dai gizzi. Allora stanotte tuppi arrosto, grazie. No, stanotte c'ho il sugo alla bolognese, non so se mi faccio c'ho i ravioli, quelli piccolini o quelli oppure le pennette e a seconda io venne di mangiare la gara mi vuole, io mi mangio solo un po' di primo e un po' di primo. A me si mangia mangiato un bel pezzo di pane con il mascarpone e quel salame grande, buona reggiuita, un poco di salata. E me ne è giusta la cara, dice che cazzo di mezzo su salame, ma va me lo mangio. Ed era buono. Ma tu vai, te la state mangiare. Non è che mangiassi, uno può mangiare, basta. Ah, belle volte non è buia, per l'altra notte non avevo mai mangiato fatto così, cosa buia, va. Non so cosa mangiare stanotte, ma leggero sicuramente, molto leggero. La notte conviene mangiare leggero, uno mi trovi pure più bene quando mangi leggero. No, e poi quando stai fermo come sono io qua, mica ti giri subito, mi vuole un po' di più a ti giri. È diverso da uno che esce, va, torna, si muove, e è tutto diverso. Allora ti girisci anche prima, capi? Meglio mangiare leggeri la notte, grazie. Sì, io preferisco anche un po' di frutta. Sì. Poi c'ha questi mandarini che abbiamo preso a campagna dal padre di Marina, ma sono... Guarda, non ce l'hai in giro così dolci, no, è impossibile. Io non l'ho già avuto ancora, così dolci. sono buonissimi, piccoli ma sono dolci, dolci, dolci. Sono come quelli che ho in campagna io, piccoli e dolci, dolci. Già lo so, ce li ho io quelli. Anche in campagna, dai in campagna da noi, ce ne sono tre o quattro alberi. Ce ho gli aranci, a buia. Poi quello, guarda, diciamo che quando non sta bene purtroppo deve abbandonare, sono guai. Magari uno va a caffè, ma l'anno non è che vai in sagana di mangiare, ma a me un bel volte, pare che faccio un bel di fame, anzi ti posso a mangiare, ti mangi lo primo e so con gli accoppiati, ti rimasta tutta la fantasia. Con il tempo e gli anni te ne passa anche la buia, ma io mi ammento, mi mangiava appunto un pirato prima, però mi muovevo, lavoravo, facevo, ma a fianco, manco un quarto di quello che mi mangiavo prima. Io lo stesso prima mangiavo un bel, adesso sto cercando di darmi una regolata. Anche il panino la mattina mi mangiavo, verso le 10:30, pancetta, prosciutto crudo, ben imbustito. Ma una volta che cominciavi a pullacciarti, non se ne viene più gana a me di mangiare. Invece prima mi veniva proprio il coso allo stomaco, me lo sentivo che dovevo mangiare qualche cosa baffuta, capi? Ma era diverso prima. Ero sano e tutto, e lavoravo, ti muovevi. Adesso è rimasto un sogno. No, io la mattina non troppo niente, se no poi a pranzo non mangio. No, io questo quando lavoravo che facevo l'autista, però mangiavo così. Quando poi non ho fatto più l'autista non mangiavo più la mattina, non me ne veniva la gana, ma quando facevo l'autista, cioè me ne veniva la gana di mangiare. Poi ci va via la pasta, mangia una zabullana, un manzano, un bello paninotto, un bello teccio e una bella birretta. Vabbè, grazie. Mangiamo leggeri, va. Io ripeto, la mattina non mangio niente, nulla. Perché sennò poi a pranzo non mangio. No. Tipo, se mi mangio un panino con la mortadella, giù con puttito. A pranzo, guarda, non ce la faccio a mangiare, mangio male. No, adesso la mattina neanche io. Lo manzano, mi faccio il tè, ho due fette biscottate, ho una merendina, ho un paio di biscotti. Poi mi prendo le pastiglie, e ho chiuso, non me ne viene più fame, no? Una mezz'ora, molte volte non ne ho neanche fame. Ma mangio che mi devo fare l'insulina. Sono un bel piatto di pasta al forno, grazie. L'ho mangiata da poco anche, quella lì, ed era buona brutta. C'ho anche i ravioli se voglio farli, ma no, di mezz'ora andano i venti, da voi la luce sono pesanti con un rigotto, l'altra notte lo stesso mi ho fatto un po' di riso, poi lo è al burro, e io da un mese sta mangiando, e anche le polpette di riso, buone. Sì, adesso facendo... Anna. Aspetta, guarda, non ho mai messo un amico a scaricarsi i pitoni per vedere se non è stato lì, abita in Cortina, stessa Sarese, ma vive in Furia da tanti anni. E mandaglielo. E Tore non si è sentito, ma chi giorni manco? Tore non si è più sentito, ma chi giorni manco? Non è dovuta. Adesso spendo, le 8:20 sono, mi devo fare l'insulina e ciao, ci sentiamo, a domani, saluta Marina da parte mia di Paoletta, buonasera e buon tutto, e salutona che è in ascolto, alla Recce di Boscu, ciao! Ciao, grazie, dai! Salutaci a Paoletta, Marina contro la casa, so. Ciao, grazie, tanti saluti a te e a Paoletta. Ciao. Ciao Marina, buonasera a voi tutti, anche a voi. Ciao, ciao. Aspetta, ciao, grazie. Ehi, ciao.